In questi mesi in cui siamo state chiuse in casa abbiamo cercato di inventarci altri modi per stare insieme, per stare in contatto, per inventarci delle strategie per continuare la nostra azione politica. Una di queste è stata la radio, Radio Lotto tutto l'anno, che trovate sul nostro blog, non una di meno milanoblog.wordpress.com, e che in questo momento è in diretta da questa piazza, quindi salutiamo anche chi ci sta ascoltando ma non può essere qui. Questo perché lo abbiamo detto fin da subito, noi siamo state in casa perché da sempre abbiamo voluto che le nostre azioni politiche e che la nostra società sia una società inclusiva ed includente, e in cui la vulnerabilità non sia una scusa per attaccare qualcuna, ma invece una forza collettiva. E quindi anche oggi siamo in radio, Radio Lotto tutto l'anno, ciao. E tutto, sono Altea e vorrei dire qualche parola per quanto riguarda gli studenti e gli studentessi universitari. In questa quarantena sono venuti a mancare forse uno dei pochi luoghi che per molte di noi era un luogo sicuro, cioè i luoghi della formazione. Venendo a mancare questo spazio di ritrovo sicuro, sono venute a mancare anche le condizioni necessarie per portare avanti quello che è la nostra carriera universitaria, che già di per sé è sottoposta comunque a dei ritmi molto stretti e che passano attraverso la logica della competitività. Abbiamo visto in queste ultime settimane la quasi completa ripartenza delle attività produttive, mentre per quanto riguarda scuola e università, noi studenti e studentesse non abbiamo ancora visto un serio piano di riapertura, un piano che permetta una riapertura sicura per tutte, tutti e tutto. Molto spesso gli atenei sono lasciati a se stessi, ogni ateneo decide per sé. Questo crea disparità tra studenti, studentesse e studenti, tutti. La quarantena ha reso evidenti delle disparità che già c'erano prima della quarantena. Ci ha fatto vedere case troppo piccole per studiare, ci ha fatto vedere famiglie dove due, tre, quattro figli dovevano seguire le lezioni online in contemporanea, quindi bisognava scegliere chi tra di loro avrebbe potuto portare avanti appunto il suo percorso scolastico e chi no. Ci ha fatto vedere case violente, psicologicamente e fisicamente, che non hanno permesso appunto il sereno svolgimento della vita di tutte. Ci hanno fatto vedere come le istituzioni, dal comune, la regione, il governo, se ne sono bellamente fregati di quelle che sono le condizioni materiali delle studenti e degli studenti e gli studenti, e non hanno dato il minimo supporto alle famiglie che più erano in difficoltà. Questo supporto non c'è stato durante l'emergenza, non c'è stato durante la quarantena, ma per come sono le discussioni adesso in atto in istituzioni non ci sarà neanche dopo. Le studentesse e gli studenti ad oggi non vedono un reale piano di aiuto per loro e, come sempre, le fasce più deboli vengono abbandonate. Le disparità c'erano già prima del coronavirus e ci saranno anche dopo. Si poteva utilizzare questa situazione per interrogarsi sulle condizioni economiche, come esse influenzano la vita degli studenti e delle studentesse. Questa cosa non si è fatta e quindi noi ci aspettiamo che negli anni prossimi, soprattutto l'anno prossimo, ci sarà un pesante calo delle immatricolazioni, ledendo il diritto allo studio di tutte e di tutti. Grazie. Ciao a tutte e tutti. Io sono Alice, uno di meno, e presento un gioco che verrà fatto al lato della statua, che è il gioco sulla percezione della violenza. Una cosa veramente molto semplice. Si gioca a gruppi di 5, ci si mette su un rettilineo, verranno fatte 15 domande alle quali si risponde sì o no. Nel momento in cui si risponde sì, si avanza di un passo e si vede che chi arriva per primo alla fine vuol dire che ha collezionato veramente tanta violenza, soprattutto percezione della violenza psicologica. Abbiamo anche fatto un kit, non una di meno, anche fatto un kit che tra l'altro è stato elaborato in maniera trasversale sia dal punto di vista dell'età sia dal punto di vista della provenienza, che ha toccato un tot, diciamo, di aspetti. Abbiamo deciso di incentrare il nostro lavoro sulla prevenzione della violenza e quindi abbiamo dato questo kit, è un piccolo manualetto che dà la possibilità e dà alcuni elementi, alcune spie per riconoscere la violenza, ovvero sono in una relazione tossica, sono in una relazione che non va bene, potrebbe sfociare in violenza. Bene, sì, ci si dà qualche indicazione sul rendersi conto, diciamo, della situazione in cui si è. Abbiamo deciso poi alla fine di dare anche delle informazioni che riguardano invece i centri antiviolenza, perché in caso qualcuno invece si trovasse in situazioni ben più pesanti e ben più pericolose, ha la possibilità, diciamo, di contattare chi può dargli realmente una mano fattivamente. Quindi il nostro kit è disponibile qui davanti, è gratuito e quindi chi ha voglia di prenderne uno si serva. E grazie a tutti, adesso cominciamo con il gioco che viene fatto al lato della statua. Buon gioco! Over the me, I chant, come on. Best lady, show me. vedete solo le femmine ci la criate, un mondo che danzerelle sempre vanno ringraziate, questa è la regola e Cuscinge lo sape, cazzo un cavenano le femmine vanno rispettate, invece quante se ne vedono da me fa l'estate, minacciate, maltrattate, cadate, deportate, da lui paesi loro ricevono una cecate, da la promessa della patria che lui deve le pace. When I listen this to my mom's dream, I'm blessing me. It's the mother of the future, give up to the creator. Blessing me. That's what I do. When I listen this to you know the messages. Blessing me. Now I represent the women of the black, so I'm gonna make a cha-cha. Blessing me. C'è in anecchiare, c'è non si capita ancora, devo niente una soggetta e te ne hanno un gol, la zubone scritta muovo il culo là dentro, ma mo son grado da tenere in guerra pantalon, a chi sa masca l'angia vola una lezione, la scusa tu sei so debole, non ha niente buon, la minica è una foto giusta fa calazione, la busa la violenza in città con la luna più sola. Verite d'essere stesse senza sanità, verite d'una diessa condizionate e comandate, danno padre padrona cambona, la legge di mascola da casa, femmina menata e femmina velata, capo nero rovena non spregiata, bruciata, femmina ma non è del turismo sessuale, femmina meridionale, sotto me la storia è sempre uguale, quando gli senti schiumi agli al singolo, presto lì, presto lì, presto lì, presto lì, presto lì, when I listen to stone, you know the messages. Blessing me. The messages. Now I present a women of a deep love. So for me, I chant, chant. Blessing me. Campagna per dare la possibilità a chi è malato di curarsi con la cannabis. Globe University Record, che è la nostra piccola etichetta indipendente in Italia. Ho voglia di ballare, prendere il ritmo, andare, togliermi di dosso gli anni. Gli anni, ho voglia di ballare, ho voglia di ballare. So while the flowers of ganja, no want no more. Me no want no cigarette, me no want no coke. And sure, my only clue is my ganja. Let me blow my ganja. I'm a ganja farmer, original and professional. You can stop me, policeman or politician. Let's go to my inspiration and concentration. It's not a joke for me, no smoke, we empathy, smoke. We bring the spend money to the drugs of the rich. Put my seed in my garden and my herbs go quick. It is not the rally flowers of ganja. No want no more. Me no want no cigarette. Me no want no coke. And sure, my only cure is my ganja. Al mare, voce così bassa non pensavo di cantare, mi misi in fila a aspettare il mio turno, non pensavo di essere mortale, vale. Tutti a digiuno, dopo di me in fila non c'era più nessuno, strage di MCs, da lì la leggenda si è sposta come il fumo, vera, come la balera, regina guerriera, leggi la mia scena, regina il daiquiri, la professionista, fai fatta la finta, dammi l'indirizzo di tutti sti ragazzini, quando tutti tanti fanno lì, da tutti con microfonini, ti lascio giocare, sono tutti figli miei, miei, miei. E la regina della gara, gara, gara, gara. C'era una ragazza guapa con i dreadlocks. Se non la conosci stai ancora tra le cosce di mamma. Non c'avevi un pelo coba. A me ne basta lo sole, senza più paure. Danni prepariamo le armature. Che scuse, almeno uno sciure. Se sei arrivato non iniziare neppure. Se sei col muso non iniziare neppure. Tua mamma, chi è papà? Mi hanno detto che fa il boss, non stanno di so cross. Piccino famoso, capiti a scos. Mi mangio la ciccia e te la selos. Si sono un DJ, non sono più boss. Si sono facendo the squash. Ciao a tutte, tutti e tutto. Si sta svolgendo il gioco sulla percezione della violenza qui in Piazza Missori, piazza di Non Una di Meno oggi. Allora, il gioco è composto da 15 tappe che corrispondono a 15 domande alle quali si risponde con un sì o con un no. Chi risponde sì avanza sulla scala della percezione della violenza. Abbiamo già fatto 3 turni, adesso giochiamo il 4º turno, sta avendo un grande successone, diciamo così. Adesso leggerò le domande, chi è in sul rettilineo apra le orecchie e avanzi o non avanzi. Ti sei mai sentita a disagio per uno sguardo insistente in un luogo pubblico? Ti è mai capitato di aver ricevuto commenti inappropriati e non richiesti sul tuo aspetto? Ti è mai capitato che qualcuno ti mostrasse il pene o si masturbasse in un luogo pubblico? Il classico esibizionista, insomma. Ti è mai capitato di essere toccata senza il tuo consenso in un luogo pubblico, dall'appoggio sul bus alla mano morta? Hai mai avuto paura di tornare a casa da sola? All'inizio della relazione ti sei mai sentita oppressa da una quantità eccessiva di messaggi, telefonate e attenzioni? Hai mai avuto una relazione in cui il tuo partner ha fatto in modo di allontanarti dai tuoi affetti? Ti sei mai sentita terrorizzata all'idea di perdere il o la tua o tuo partner? Ti sei mai sentita dire frasi del tipo con chi sei o cosa stai facendo insistentemente o ti hanno mai controllato il cellulare? Ti è mai stata fatta una scenata di gelosia in pubblico? Hai mai avuto la sensazione di dubitare dei tuoi ricordi, delle parole che hai detto e delle tue azioni nella tua relazione, con frasi tipo non è andata così, ti inventi le cose, non ti ricordi bene? La tua o il tuo partner ti ha mai fatto sentire non all'altezza, giudicata inadeguata, con frasi del tipo come ti vesti, ma vuoi andare in giro così, lascia stare, meglio che faccia io? Ti sei mai sentita di dover decidere tra i tuoi affetti e interessi e il tuo mondo e la tua relazione? Ti sei mai sentita in dovere di avere rapporti sessuali? Ti è capitato sistematicamente che dopo un litigio il o la tua o il tuo partner ti imponesse un silenzio prolungato? Bene, il gioco è finito. Come siamo arrivati? Comunque superiamo sempre la decina sulle 15 domande. Quindi diciamo che c'è un problema di come si impostano e come si vivono le relazioni. e i panni sporchi li stiamo lavando qui in piazza. Salito si rock top like it's down. Yo quiero un son que no te deje apalancar. Yo traigo un son que directo me va a delatar. Acumular sonido para estallar. Yo quiero un son para ahuyentar a la polis. Yo quiero un son que traiga la apocalipsis. Mi padre son DJ Tano y que pone mis. Pone pa' ti se ve porque te guarda a ti. Son a las 12, son a la 1. Comiendo aire, gastando una fortuna. Le doy esta vacuna, ahora entra en la tribuna. River Stone te transporta hasta la luna. Hasta la luna. Oye, sonido, permite que te desglose. Soy esa chica que en la madrugada tose. River Stone controla el altavoz. El tema mientras en las buenas mesas se cose. Conoce, ya es goce. Aprende que simple es caerse de cabeza. Escuchando un 2x3, olvídate del acento inglés. De siempre ser el 10. Con nosotros ven y respira las buenas ideas. Yo no le hice mente, DJ Tano suena de repente. Quiero un son que me haga de resonar. Yo quiero un son que no te deje apalancar. Yo traigo un son que directo me va a delatar. Acumular sonido para estallar. Yo quiero un son para ahuyentar a la polis. Yo quiero un son que traiga la apocalipsis. Mi verde son DJ Tano y que tono mis. Con empatis me ve porque te guaratis. Aquí no hay materia que desperdiciar. No vendo vistas, solo las puedo cantar. Que te hago hasta el fraile hipnotizado con este desfile. Pero si no puedes dejar de pensar de estar a la moda y adelgazar. Déjate de tanto sufite. Oye y concéntrate. Bebe tu whisky y de tanto ni olvidarte. De tanto ni olvidarte. Freak, freak, yo. what it was. Started up a street jam, we was having fun. Holla, boogie down, northeast too. I wanna dance, now how about you? Holla, boogie down. Domenica dalle 5 in poi siete tutte e tutti e tutto invitati alla giornata, alla prima giornata, una prima tappa, Decolonize the City. È fondamentale decolonizzare la città, l'abbiamo fatto contestando la retorica sessista e razzista che difende e continua a difendere il passato coloniale italiano, non volendolo affrontare nella sua complessità. E abbiamo deciso insieme ad altre realtà di costruire una giornata che possa rispondere alla domanda: che cosa significa decolonizzare, che cosa significa volere una città antirazzista e transfemminista, in modo da non fermarci alla statua di Indro Montanelli, ormai quasi innominabile, ma che usi quello come strumento per aprire un dibattito franco sul colonialismo italiano, sulla nostra storia, sul suprematismo, sul razzismo e la violenza che ne compongono i caratteri essenziali. Il colonialismo è stupro e continueremo a dirlo e continueremo a ribadirlo anche in quei monumenti, anche sotto quei monumenti che scolpiscono la normalità, una normalità violenta che produce esclusione e sopraffazione. I monumenti hanno a che vedere con lo spazio pubblico e dichiarano il così fu e il così è. E questo spazio pubblico che vogliamo risignificare, a partire dai corpi della Milano meticcia e queer che si intrecciano nel quartiere di Porta Venezia. Ci vediamo domenica alle 17, portate il telo, portate la crema solare, prendetevi un po' di sole, e portate soprattutto la capacità di ascoltare. Faremo una lezione sul colonialismo italiano e discuteremo insieme del ruolo dell'arte e della sua potenza all'interno del nostro attivismo. Ci vediamo domenica. Into my brown eyes, see my lips always commit you switch sides. You never know the devil in a disguise. So why don't you stand up, baby? Tell me, tell me, tell me, do you want me on top? So let me show you, show you, show you. I don't need to back it up. Don't wanna hold you, mold you slow, just split you in half in my heart. I just wanna love on you, trust in you, honor you, keep doing the same on your part. Thank you. Ciao a tutte, tutti, tutto. Io sono Giulia e volevo parlarvi di un lavoro fatto con Degenerazione. Si chiama Boys Don't Cry, è un opuscolo sulla mascolinità tossica, come riconoscerla. Nasce soprattutto da tre esigenze. La prima, abbiamo fatto un festival lo scorso ottobre proprio sulla mascolinità tossica, a cui hanno partecipato moltissimi uomini proprio per mettersi in discussione, e insieme anche al collettivo delle Indecorose, e quindi continuare quel tipo di lavoro. La seconda esigenza era continuare anche un percorso di presa di coscienza per quanto riguarda il sessismo all'interno dei movimenti. E la terza esigenza era quella di offrire degli spunti di riflessione per qualsiasi individuo che riguardassero appunto dei comportamenti tossici e atteggiamenti tossici. È un lavoro che è nato da una scrittura collettiva a più mani tra diversi... sia uomini che donne, un po' tutto, e verrà presentato anche prossimamente, speriamo da settembre, soprattutto nelle scuole, proprio per incentivare questa messa in discussione, questa riflessione anche nelle persone più giovani, grazie anche all'associazione Pettirosso che ci dà questa possibilità di andare nelle scuole. E se volete ne possiamo distribuire qualche copia qua adesso. Quando diciamo che le case non sono dei luoghi sicuri, lo diciamo per esperienza, esperienza che abbiamo purtroppo confermato anche durante questo lockdown e a partire da questa così, consapevolezza con Ambrosia, collettiva transfemminista e queer milanese che fa parte di Non Una di Meno, abbiamo scelto di fare una formazione per tutte, tutti e tutto i volontari e le volontarie delle brigate volontarie per l'emergenza, ho detto volontarie altre 50 volte, una formazione che abbiamo fatto in collaborazione con Elisa e con Cadmi, grazie per questo momento passerella, perché appunto tutte e tutti potessimo avere gli strumenti entrando a contatto con le case e con le vite delle persone per riconoscere quantomeno i segni della violenza e provare a indirizzare le persone verso i luoghi più giusti. Per noi è stato un modo per provare a mettere a disposizione degli strumenti e provare a condividerli. E ringraziamo moltissimo le brigate qui, Camilla, che ci hanno accolto in questo percorso. Grazie a tutte e tutti e tutto. Sì, allora io mi chiamo Camilla, faccio parte delle brigate e in particolare ho svolto il ruolo del centralino e ringrazio tantissimo Cadmi e le Ambrose appunto per la formazione che ci hanno fatto. È stata una formazione veramente utile perché questo lockdown, questa situazione di confinamento sociale ha fatto uscire tantissimi problemi e tantissime situazioni che prima venivano volontariamente ignorate e che tantissime persone, tantissime donne continuavano comunque a sentire sulla propria pelle. La casa non è stato un luogo sicuro, un luogo di ristoro per tantissime donne durante questa pandemia, durante questa quarantena, e dalle voci che abbiamo ascoltato al centralino è stato chiaro fin dal primo momento, perché le donne, le compagne sono diventate non più solo lavoratrici fuori casa e domestiche all'interno, ma sono diventate anche psicologhe, compagne, dovevano supportare tutto il peso della famiglia e spesso il ringraziamento non è arrivato perché è stato considerato come qualcosa di dovuto. Grazie alla formazione che ci è stata data appunto dalle Ambrosie e da Cadmi, ci sono stati dati degli strumenti che ci hanno permesso di capire determinate situazioni, dinamiche che andavano a toccare le persone, perché le problematiche di ognuno poi si uniscono e da chi non ha avuto la possibilità di accedere ai centri antiviolenza perché non aveva il tampone, non gli veniva fatto, da chi aveva bisogno di abortire e le dinamiche di aborto venivano ostacolate per quella che viene chiamata obiezione di coscienza. Tutta la cura dei figli e della casa è caduta totalmente sulle donne e il supporto psicologico, se non fosse stato per le brigate, sarebbe stato... E per le brigate e per tutti i centri che per fortuna aiutano in queste situazioni sarebbe stato totalmente assente. Quindi grazie ancora e cerchiamo di non tornare alla situazione, alla normalità di prima in cui tutti questi problemi che colpiscono tutta la popolazione, perché poi i problemi che ci sono sulle donne e sulle compagne si riversano su tutti quanti, tornino a essere nel buio. Grazie. Allora, i piatti, i nostri panni sporchi li abbiamo esposti, lavati in piazza, giocare abbiamo giocato e vi salutiamo. Prima di farlo ci teniamo però a ricordarvi che nel corso del lockdown, l'abbiamo già ripetuto più volte nel corso di queste due ore, abbiamo cercato di costruire, di dotarci di strumenti accessibili a tutte e tutti per non restare sole, ma soprattutto per usare questa fase di lockdown proprio per non tornare alla normalità, perché lo abbiamo detto, la normalità era il problema. Allora vi invitiamo ad andare sul nostro blog, non una di meno Milano blog.wordpress.com, dove trovate casa. Dove, scusate, mi arrivano i suggerimenti da casa. Dove trovate tutte le non lezioni realizzate da fuori classe. Una delle cose che abbiamo cercato di fare è stata proprio incunearci in questa contraddizione che ha visto la scuola e i ragazzi e le ragazze abbandonati dall'istituzione, approfittare di questo vuoto per costruire i contenuti che troppo spesso nella scuola mancano, per cui per ripartire da un'educazione transfemminista e antirazzista. Trovate anche tutte le puntate della radio che potete ascoltare in podcast e tutte le riflessioni che abbiamo realizzato. Ultime due cose, poi mi taccio veramente. Vi ricordiamo intanto domani l'appuntamento con la non biciclettata transfemminista queer. Siamo nel pieno della Pride Week. Marciona, in diversissime, moltissime città italiane, organizza una serie di eventi transfemministi queer, per cui l'appuntamento è domani a partire dalle 15 a Piano Terra in via Confalonieri. E torno a ricordare infine domenica, a partire dalle 17, ai giardini pubblici di Porta Venezia, che non chiameremo in nessun altro modo, per Decolonize the City. Grazie a tutti! I am Gemini, people love to call me crazy, but they judging and they hating, and I'm too gone for explaining. I am Gemini, June 14, and with a famous chapter. I'm the rising ascendant, fifth degree to the moon. I'm the witch of your dreams, I'm the voice in your head. Your husband sent me a DM and I just left them on red. My planet's Mercury, my element is air. I'm such a free spirit that I don't fucking care. If I got a blunt, I ain't moving out my chair. You can kiss my dairy beer, cause he's shaped like a bear. Little zodiac, ginger snap, pretty little shorty with the snapback. Tarot deck, on sack, like to get her feet wet with feet wet. The freak neck, the wrong look to be ex. I clean up like Kleenex. Finally, I'm recessed, kickball to the deep end. The public school era is old school forever. The moon and the tide really control the weather. The sun and the moon, yes, they do go together. A spiritual being that rides any weather. Riders on the storm, riders on the storm. Yes, I'm on my own, trying to find up my home. Riders on the storm, riders on the storm. Always on my own, trying to find up a home. Intelligent, adaptable, agile, communicative. Informative, creative, and everybody hates it. Imagination colorful when I just entertain it. A poet and a dreamer, I'ma seize the world and take it. Of course there is the bad, I'm really superficial. I ain't called you in 3 months till I maintain that I miss you. A Gemini with issues, social isolation. I pray that I'm a make it, or at least that I can do it. And like a Gemini, I'm really prone to changes. I'm really indecisive and I really fucking hate it. Picking food or picking clothes, it always makes me anxious. But thank God I'm in charge of this, cause voice calls what I stay in. Riders on the storm, riders on the storm. Yes, I'm on my own, trying to find up my home. Riders on the storm, riders on the storm. Always on my own, trying to find up a home. Every time they have a fight, and this is what they say tonight. Boys are rotten, made out of cotton. Girls are sexy, made out of Pepsi. Boys go to Jupiter to get more stupider. Girls go to college to get more knowledge. Wrap it up in toilet paper, send it down the escalator. Thank you.